22 dicembre. Fino ad oggi l'inverno è stato splendido. Cieli tersi, brina, poco vento, tranne qualche folata pungente ogni tanto. Pochissimi giorni veramente freddi. Le finestre sono rallegrate da giacinti e mughetti, e benché non apprezzi il profumo dei giacinti a primavera, quando mi sembra manchi di giovinezza e purezza accanto a quello degli altri fiori, ora che è dicembre sono contenta di tuffarmi nella loro pesante dolcezza. A dicembre non ci si può permettere di fare difficili, inoltre in inverno si ha comunque meno difficili su tutto. L'aria frizzante tempra e robustisce sia l'anima sia il corpo, e cibi e profumi che durante l'estate ci disgustano, in inverno sono perfettamente graditi. Pur essendo molto impegnata nei preparativi per il Natale, in certi momenti mi sono sottratta ai doveri, lasciandoli a metà. E mi sono chiusa a chiave in una stanza dove in totale solitudine ho consultato i cataloghi di giardinaggio per stendere la lista dei semi, degli arbusti e degli alberi da ordinare in vista della primavera. Si tratta di un'occupazione affascinante che acquista attrattive maggiori quando si è consapevoli del fatto che dovremo dedicarci a tutt'altro, che il Natale è alle porte, che bambini, servitù e braccianti dipendono da noi per la loro felicità. E che se non pensiamo noi a decorare l'albero e la casa e a comprare i regali, nessuno lo farà. Come volano le ore quando me ne sto rinchiusa con i cataloghi, mentre il dovere ringhia oltre la porta. Non mi piace il dovere. Qualunque cosa minimamente sgradevole è di sicuro un dovere da compiere. Perché non è mio dovere fare liste e progetti per il mio adorato giardino? Lo è un dovere. Ho ribadito davanti alle proteste dell'uomo della collera, che si lamentava perché, come diceva lui, sprecavo il tempo al piano di sopra. No, che non lo è, ha detto saggiamente. Il tuo giardino non è un dovere, è il tuo piacere. Che gran comodità è avere sempre a disposizione un tale pozzo di saggezza. Chiunque può avere un marito, ma a poche donne è dato possedere un saggio. E la combinazione di saggio e marito è tanto rara quanto utile. Anzi, quanto a comodità, l'unica cosa che vi somiglia è il divano che la mia vicina ha regalato al marito per Natale. Me l'ha mostrato l'ultima volta che sono andata a trovarla. È un'invenzione meravigliosa e riunisce in sé la struttura di un letto, di un divano e di un comò. Nella parte che funge da comò ci metti i vestiti. Poi ti ci stendi sopra e se nel cuore della notte viene a trovarti qualcuno e ti trova nel salotto intento a usarlo come una camera da letto, basta che aggiungi le lenzuola ed eccoti sistemato sul divano, pronto a ricevere visite come se aspettassi amici da ore. Scusa, ma tuo marito indossa il pigiama? Ho domandato. La mia amica non aveva mai sentito parlare di pigiami. Le mie liste di primavera sono lunghe da compilare. Innanzitutto voglio una bordura tutta gialla, di ogni sfumatura, dall'arancio più intenso al giallo canarino più pallido, e la quantità di lavori di studio che mi costa consultare i cataloghi può essere apprezzata solo dai principianti come me. Sono settimane che la sto progettando e non se ne vede la fine. Voglio che il mio giardino sia un susseguirsi di trionfi da maggio fino alle prime brinate, e la sua gloria principale saranno i numerosissimi taggetti fiammeggianti, per dirla con Keats, e i nasturzi. I taggetti li amo davvero teneramente. I nasturzi saranno di ogni varietà e sfumatura, e si arrampicheranno e strisceranno formando cespugli veri e propri per mostrare al meglio i loro graziosi fiori e le foglie. Poi dovranno esserci i papaveri della California, dalie, girasoli, zinnie, scabiose, portulache, pansei, violaciocche, piselli odorosi, lupini, tutti quanti gialli, che lo siano esclusivamente o come varietà. Ho scelto una lunga striscia di terreno ampio e ben esposto, ai piedi di un pendio erboso sormontato da lilà e pini, rivolta a sud-est. Si attraversa una piccola pineta e, svoltato un angolo, ci si imbatte in questo lembo di terra dove è imprigionata tutta la magnificenza del mattino. Voglio che uscendo dalla passeggiata nel boschetto ombroso e fresco, la vista ne sia abbagliata. L'idea sarebbe questa, ma mi viene la depressione se penso al probabile abisso tra l'idea e la sua realizzazione. Io sono ignorante e sospetto che il giardiniere lo sia ancora di più. Infatti voleva forzare dei tulipani che invece si sono accartocciati e sono morti e lui non riesce a immaginare perché sia successo. Inoltre è innamorato della cuoca e si sposeranno dopo Natale, perciò rifiuta di concentrarsi sui miei progetti con l'entusiasmo che meritano, passando invece tutto il giorno a spaccare legna con lo sguardo sognante per rifornire il fuoco che scoppietta nella cucina della sua amata. Non capisco come si possa preferire una cuoca a dei tageti. Per quanto chimerici, quei tageti, cui semi dormono ancora nel magazzino del venditore, hanno già illuminato le mie giornate invernali come lampade dorate. Vorrei con tutte le mie forze essere un uomo e ovviamente la prima cosa che farei sarebbe comprare una vanga e mettermi a lavorare in giardino. In tal modo avrei davvero il piacere di occuparmi da sola dei miei fiori senza dover sprecare tempo a spiegare quello che voglio a un estraneo. Impartire ordini e cercare di descrivere le visioni luminose che mi passano per la testa a una persona che non ha né testa né visioni è un'occupazione noiosissima. Cosa può capire un giardiniere per cui un'aiuola gialla e un tappeto di calceolarie bordato di blu? Nello scegliere le mie piante gialle mi sono premurata di mettere solo le più umili, quelle che si accontentano di poco, perché il mio terreno non è il massimo e il clima le metterà duramente alla prova. Sono veramente riconoscente a qualsiasi fiore abbastanza robusto e determinato da prosperare in questo ambiente. Le pansee e i piselli odorosi sembrano amare questo luogo, i garofani invece no. E la scorsa estate ho dovuto blandirli a non finire senza ricavarne granché. Le rose sono state quasi tutte un successo, nonostante il terreno sabbioso, eccetto la Adam, una rosa tea che era coperta di boccioli sul punto di aprirsi e che invece si sono seccate all'improvviso e sono morti. Le tre Dottor Grill ad alberello, che stavano in fila e hanno tenuto il broncio per tutto il tempo. E pensare che queste ultime, a leggere la descrizione sui cataloghi, mi erano sembrate davvero affascinanti. Ho senz'altro meritato la loro indifferenza. Tanto che quando le mie figlie cominceranno ad andare alle feste, riceveranno questi consigli. Non entusiasmatevi mai per nulla, mie care. Se proprio non potete farne a meno, cercate di non mostrarlo. Se per natura vi sentite un vulcano, cercate almeno di covare le vostre braccia sotto la cenere. Non mostratevi contente o interessate, soprattutto non date a vedere l'entusiasmo che provate. Sul vostro volto dovrebbe regnare sempre una calma indifferenza. Non mostrate mai a nessuno che qualcuno o qualcosa vi piace. Siate fredde, languide e riservate. Se non fate come vi dice vostra madre e vi comportate come stupide fanciulle esuberanti e vivaci, finirete per essere snobbate. Se invece seguite i consigli di vostra madre, sposerete dei principi e vivrete per sempre felici e contente. La Dottor Grill deve essere una rosa tedesca. In questa parte del mondo, più si è contenti di vedere una persona, meno lei è contenta di vedere noi. Se invece ci si comporta in modo sgradevole, l'altro diventa palesemente lieto di vederci e la sua affabilità cresce in maniera esponenziale man mano che noi ci irrigidiamo e diventiamo scontrosi. Purtroppo non ero pronta a osservare un simile comportamento in una rosa e ne sono rimasta disgustata. La Dottor Grill aveva la posizione migliore nel giardino. Calda, soleggiata e riparata. Le buche erano state preparate con tenera cura. Aveva ricevuto la mistura di humus, argilla e concime più raffinata possibile. Era stata annaffiata assiduamente durante la siccità, quando altri fiori ben più volenterosi non avevano ricevuto nulla. Con tutto questo non ha fatto altro che mostrarsi annerita e rinsecchita, né morta né viva, e si è limitata a esistere. Alla fine dell'estate non mostrava un solo germoglio o foglia in più di quelli che aveva quando l'abbiamo messa a dimora in aprile. Sarebbe stato meglio fosse morta subito, così avrei saputo come comportarmi. Adesso se ne sta lì, nel suo posto privilegiato, ben avvolta nelle protezioni invernali, a escludere rose di varietà più generose, probabilmente intenzionata a comportarsi così anche l'anno prossimo. Beh, è destino dell'umanità essere messa alla prova e anche i giardinieri hanno la loro parte. In ogni caso è sempre meglio essere messi alla prova da una pianta che non dalle persone, nella consapevolezza che con le piante sai sempre che sei tu a sbagliare, mentre con le persone è sempre vero l'opposto. Qualcuno tra noi ha forse patito le pene dell'innocenza offesa senza sapere quanto siano terribili? Ho due ospiti, nonostante non abbia fatto nulla per meritare una tale punizione. Speravo di passare un lieto Natale in famiglia, solo io, l'uomo della collera e le tre bambine. Ma il fatto ha deciso altrimenti. Succede regolarmente che il fatto metta lo zampino proprio nelle cose che aspetto con maggiore trepidazione. Non so perché si comporti così, ma lo fa. Quando Queste simpatiche signore non le avevo neppure invitate, mi sono capitate tra capo e collo come inattesi onori tributati alla modestia. Una è Irè, la dolce cantante dell'estate scorsa, a cui voglio bene come merita, ma che credevo di non rivedere più per almeno un anno. Mi ha scritto chiedendomi di ospitarla per Natale, il marito era depresso e a lei non piace vederlo in quello stato. Siccome i mariti depressi non piacciono neanche a me, piena di comprensione per il suo problema, le ho risposto addirittura pregandola di venire. Ed eccola qui. L'altra è Minora. Perché io debba assorbirmi Minora non lo so, visto che 2 settimane fa non sapevo neanche che esistesse. Un mattino, il giorno dopo il ritorno dall'Inghilterra, mentre scendevo tutta pimpante a colazione, ho trovato una lettera di un'amica inglese, che fino a quel momento era stata perfettamente innocua, in cui mi chiedeva di soccorrere Minora. Ho letto la missiva ad alta voce a beneficio dell'uomo della collera che stava mangiando petto d'oca affumicato, una specialità locale assai apprezzata. Così scriveva la mia amica: Ti prego, mia cara Elizabeth, di occuparti di questa povera creatura. Studia arte a Dresda e non ha letteralmente un posto dove andare a Natale. È molto ambiziosa e industriosa. Quindi, mi ha interrotto l'uomo della collera, non è una ragazza carina. Solo le racchie sono industriose ed è pure molto intelligente. Non mi piacciono le ragazze intelligenti, sono così stupide, mi ha interrotto nuovamente l'uomo della collera. Ma se nemmeno una persona gentile come te ti impietosisce della sua sorte, questa ragazza rimarrà sola. Ma che rimanga sola allora? Sua madre è la mia più vecchia amica e sarebbe addolorata al pensiero che la figlia è da sola in una città straniera proprio in questo periodo dell'anno. Ma che mi importa del dolore di sua madre? Oh, povera me, ho esclamato con impazienza. Mi tocca proprio invitarla da noi. Se nel tuo petto batte il cuore del buon samaritano, cara Elizabeth, sono certa che troverai Minora una compagna sveglia e intelligente. Minora? Ha chiesto dubbioso l'uomo della collera. La bimba di aprile, che nelle ultime 6 settimane è stata seguita da un'istitutrice fin troppo solerte, ha alzato gli occhi dalla sua zuppa di pane e latte. Sembra il nome di un'isola, ha detto meditabonda. L'istitutrice si è scaricata la voce con un colpetto di tosse. Maiora, Minora, Alderney e Sark, ha spiegato alla sua allieva. Le ho lanciato uno sguardo severo. Se non stai attenta, April, diventerai un genio e getterai vergogna sui tuoi genitori. A giudicare dalla faccia di Miss Jones, sembrava proprio come non le piacessero i tedeschi. Temo che ci disprezzi perché pensa che siamo stranieri, un'attitudine mentale tipica degli inglesi le fa onore. Noi, d'altro canto, consideriamo lei una straniera, il che complica la questione. Devo proprio invitarla, questa strana ragazza? Ho chiesto, senza rivolgermi a nessuno in particolare e senza aspettarmi una risposta. Non devi invitarla, ma lo farai lo stesso, ha detto l'uomo della collera con pacatezza. Oggi le scriverai per invitarla cordialmente, 24 ore dopo il suo arrivo starei già litigando con lei. Ti conosco, mia cara. Litigare? Io? Con una studentessa d'arte? Miss Jones ha abbassato lo sguardo. Ha un gran fiuto per le scenate ed è sempre pronta a mettere in pratica con noi le sue doti di discrezione, tatto e buon gusto. Sembra che sappia prima di noi se stiamo litigando in modo sconveniente e ce ne accorgiamo quando tiene gli occhi abbassati. Vorrei davvero prendere il coraggio a due mani per chiedere di andarsene, perché oltre a questo eccesso di discrezione, è un'istitutrice troppo zelante, più portata all'insegnamento che al gioco. Purtroppo la bimba di aprile l'adora ed è convinta che nessuna prima di lei sia stata altrettanto bella. Ogni giorno mi racconta per filo e per segno quanto sia meraviglioso il suo guardaroba, descrivendo con sentimento ombrellini e cappelli, mentre Miss Jones assume un'aria offesa e increspa le labbra. Come molte altre istitutrici, Miss Jones ha un'ombra scura sul labbro superiore che la bambina di aprile ammira in modo particolare, tanto che un giorno si è presentata a tavola con una sorta di baffo dipinto nel tentativo di somigliarle. Immagino con quale fatica e incontenibile amore abbia tracciato quei segni con la matita, eppure Miss Jones l'ha messa in castigo per la sua impertinenza. Mi chiedo perché le istitutrici siano così sgradevoli. Secondo l'uomo della collera, è perché non sono sposate. Senza volermi dissociare completamente da quella che è un'opinione fondata sull'esperienza, desidero soltanto aggiungere che lo sforzo costante di proporsi come esempio deve essere sfibrante. È molto più semplice e spesso pure piacevole essere un monito invece che un esempio, e le istitutrici non sono altro che donne, a volte sciocche come tutte le donne, perciò capisco quanto sia seccante dover essere saggia quando vorresti soltanto essere scioccherella. Minora e i re sono arrivate insieme ieri. Per la precisione, dalla carrozza è scesa soltanto i re e mi ha informato che per strada aveva superato una strana ragazza in bicicletta. Allora ho mandato la carrozza a prenderla perché faceva buio e le strade sono in cattive condizioni. Perché inviti strane ragazze? Ha chiesto il re, piccata, togliendosi il cappello e mettendosi comoda davanti al fuoco in biblioteca. Non mi piacciono. Siamo sicuri che siano meglio dei mariti fuori uso? Chi è poi? Una che viene in bicicletta dalla stazione? È sicuramente la prima donna che lo fa. Infatti, i ragazzini le tiravano i sassi. Oh, mia cara. Questo dimostra l'ignoranza dei ragazzini. Ma non preoccupiamoci per lei, prendiamo il tè tranquille prima che arrivi. Ma senza di lei staremo meglio, ha borbottato. Siamo state bene quest'estate, no? Tu e io, solo noi due. Sì, siamo state benissimo, ho risposto abbracciandola con trasporto. Il giorno dell'arrivo di Re, la fiamma del mio affetto brucia sempre molto viva. Inoltre, stavolta mi sono premunita contro le sue stravaganze in materia di sale, ordinando che la saliera sia messa a disposizione dei commensali come un qualsiasi vassoio di contorni. Abbiamo bevuto il nostro tè e il Re è salita a cambiarsi. Poi è arrivata Minora con la sua bicicletta e mi sono precipitata a darle il benvenuto, convinta che si sentisse intimidita nel ritrovarsi in mezzo a una cerchia di estranei in un periodo come il Natale e le feste che in genere si trascorrono in famiglia. Invece non era per niente a disagio, anzi io lo ero più di lei. Si è trattenuta nell'atrio per chiedere alla servitù di rimuovere la neve dalle ruote del suo mezzo e solo dopo si è degnata di ascoltare le mie parole di benvenuto. Alla stazione non sono riuscita a farmi capire dal suo incaricato, ha commentato quando ha verificato che la questione della bicicletta era risolta. Gli ho chiesto quanto fosse lontana la casa, in che condizioni fossero le strade, ma lui mi guardava e sorrideva. È tedesco? Certo che lo è, strano però che non capisse. Lei parla inglese molto bene, sa? Nel frattempo eravamo entrate in biblioteca e lei si era fermata davanti al camino per scaldarsi la schiena mentre le versavo una tazza di tè. Che ambiente pittoresco, ha commentato guardandosi intorno. Anche l'atrio è bizzarro. È molto antico, vero? È pieno di materiale qui da voi. L'uomo della collera era nell'atrio al momento del suo arrivo e ci aveva seguito in biblioteca. Udendo quelle parole, si è messo a scrutare il tappeto. Materiale, ha detto? Dove sarebbe il materiale? Parlavo di argomenti, sa, argomenti per un libro. Prendo appunti ogni volta che vedo qualcosa di notevole nel vostro paese. Quando ne avrò il tempo, trasformerò tutto in un libro. Parlava a voce molto alta, come fanno sempre gli inglesi con gli stranieri. Dopo che Minora si era sistemata nella sua camera, sono corsa da Ire e trafelata le ho detto: Mia cara, sai la novità? Scrive libri. Chi? La ciclista. Sì, Minora, pensa un po'. Siamo rimaste a fissarci sgomente. Che cosa tremenda, ha mormorato il re. Non ho mai incontrato una ragazza che facesse queste cose. Dice che qui è pieno di materiale. Pieno di cosa? Quello che serve per fare i libri. Mia cara, è molto peggio di quanto immaginassi. Avere una ragazza stramba nella propria cerca di amici è sempre una bella noia, ma di solito si riesce a gestirla. Una ragazza che scrive libri però è sconveniente. E poi non puoi snobbarla. Sono persone impossibili da snobbare. Ci proveremo, dai! Ho esclamato con tale passione che siamo scoppiate a ridere. L'atrio e la biblioteca hanno colpito Minora più degli altri ambienti. Dopo cena si è trattenuta talmente a lungo nell'atrio che l'uomo della collera ha indossato la pelliccia per farle capire garbatamente, le sue allusioni sono sempre garbate, che forse era il caso di tornare al caldo. Voleva sapere tutta la storia della cappella, delle monache e di Gustavus Adolphus, perciò ha tirato fuori un taccuino bello spesso e ha cominciato a scrivere. A quel punto ho smesso di raccontare. Beh, ha detto, è tutto, ma si è appena cominciato. La storia finisce qui. Non vuole venire in biblioteca? In biblioteca si è messa di nuovo davanti al fuoco per scaldarsi, lasciando al freddo noi che eravamo seduti. La cosa irritante è che ha un profilo molto bello, ma per fortuna gli occhi riequilibrano la situazione. Sono troppo vicini. Irè ha acceso una sigaretta e si è lasciata andare contro lo schienale della poltrona, osservandola con aria critica da sotto le sue lunghe ciglia. Lei sta scrivendo un libro? Ha chiesto dopo qualche secondo. Beh, sì, credo di poterlo dire. Si tratta di semplici impressioni sul vostro paese, dettagli che mi colpiscono come curiosità o fatti divertenti. Li annoto e quando avrò tempo ne ricaverò un libro, immagino. Ma non sta studiando pittura? Sì, ma non posso continuare per sempre. Noi inglesi abbiamo detto, la vita è breve e l'arte è lunga. Fin troppo lunga, penso a volte. Scrivere mi rilassa molto quando sono stanca. E come lo intitolerà? Oh, pensavo di chiamarlo Giri in Germania. Suona bene, rispecchierebbe la realtà. Oppure Schizzi in giro per la Germania. Non ho ancora deciso. Potrebbe aggiungere come sottotitolo dello stesso autore di Pomeriggi in Pomerania, ha suggerito Ere. E di Dritte da Dresda, ho aggiunto. O di Bestialità da Berlino, ha continuato Ere. Minora ci ha fissato strabuzzando gli occhi. Non credo che questi ultimi due vadano bene. Non si tratta di un libro da ridere. Tuttavia, il primo titolo che ha detto Irene mi sembra buono, me lo segno, ha detto tirando fuori il taccuino. Se lei appunta tutto quello che diciamo e poi lo pubblica, si potrà ancora dire che il libro è opera sua? Ha chiesto Irene. Minora era troppo concentrata nella scrittura e non l'ha sentita. E lei, signor Sage, non ha suggerimenti da dare? Ha chiesto Irene rivolgendosi all'uomo della collera, che era occupato a soffiare nuvole di fumo. Lo chiamate Sage in inglese? Ha esclamato Minora. Irè e io ci siamo guardate. Sapevamo bene come lo chiamavamo tra noi e temevamo che Minora lo scoprisse e lo registrasse sul taccuino. L'uomo della collera non sembrava per nulla contento che si parlasse di lui alla terza persona in sua presenza. I mariti sono sempre saggi, ho affermato in tono grave. Benché i saggi non siano sempre mariti, è intervenuta Ire, serissima anche lei. Saggi e mariti. Salvia e mariti, ha proseguito meditabonda. Cosa le ricordano le mie parole, signorina Minora? Sì, questa la so. Che stupida sono, ha esclamato tutta eccitata, la matita mezz'aria e il cervello che cercava di afferrare quel pensiero sfuggente. Salvia e... Beh, sì, certo, no, anzi, sì, ma... Oh, ma è troppo volgare, non posso scriverlo. Era assai delusa. Cosa sarebbe volgare? Ho chiesto. Pensa che la salvia e le cipolle come farcitura siano volgari, ha risposto Irene languida. Invece no, sono molto buone. Si è alzata, è andata al pianoforte e dopo qualche accordo di prova ha cominciato a cantare. Lei suona? Ho chiesto a Minora. Sì, ma temo di aver perso un po' la mano. Non ho fatto altre domande. Conosco bene quel modo di suonare. Mentre accendevamo le candele da portare in camera, Minora si è messa a parlare in una lingua sconosciuta. L'abbiamo fissata a bocca aperta. Che problema ha? Ha mormorato Irè. Pensavo che gradiste parlare in tedesco, ha detto Minora in inglese. Per me non fa differenza, perciò... Non si disturbi per noi, la prego. A noi piace dare una rinfrescata all'inglese ogni tanto, vero Elizabeth? Ma io non vorrei che il mio tedesco si arrugginisca, non vorrei dimenticarmelo, ecco. Non c'era una canzone inglese che faceva "È follia ricordare, è saggezza dimenticare"? Ha commentato Irè, salendo le scale e voltandosi verso di noi che la seguivamo. Non avrà paura a dormire da sola, spero? Ho chiesto a Minora un po' avventatamente. In che camera l'hai messa? Nella numero 12. Oh! Signorina, lei crede ai fantasmi? Le ha chiesto Irè. Minora è sbiancata. Ma che stupidaggini! Non abbiamo fantasmi in questa casa, buonanotte! Se ha bisogno di qualcosa, si ricordi di suonare. E se vede qualcuno di strano? Ha aggiunto Irè sulla soglia della sua stanza. Si ricordi di annotarlo nel taccuino? 27 dicembre. Va di moda considerare il Natale una rogna da evitare a ogni costo, un periodo dell'anno in cui si chiedono ci chiedono di ingozzarci e di essere allegri senza motivo. In realtà è una delle istituzioni più graziose e poetiche che esistano, se lo si osserva nel modo giusto. Infatti, dopo essere stati più o meno scortesi con il prossimo per un anno intero, è una benedizione essere costretti a comportarci in modo affabile almeno per un giorno. È inoltre piacevole poter fare dei regali senza che ci tormenti la convinzione di viziare chi li riceve e di doverlo scontare in seguito. I domestici non sono altro che bambinoni e come i bambini li fai felici con un piccolo regalo e qualche leccornia. Già diversi giorni prima di Natale, ogni volta che le tre bambine vanno in giardino, si aspettano di trovarci Gesù bambino con le braccia cariche di regali. Credono che i loro regali arrivino così e soltanto questo basterebbe a rendere il Natale una festa degna di essere celebrata. Tutto si svolge in gran segretezza e i preparativi ricadono interamente sulle mie spalle. Non è certo un lavoro da poco, con così tanta gente in casa qui da noi e nelle varie fattorie, e bambini grandi e piccoli che si aspettano ognuno la propria fetta di felicità. Per diversi giorni, prima e dopo il Natale, la biblioteca è inabitabile perché è occupata dagli alberi e dai regali. Gli alberi stanno lungo tutto il lato, mentre lungo le altre tre pareti sono allineati i tavoli, uno per ogni membro della casa. Quando gli alberi sono illuminati e splendono sui visi felici, dimentico tutta la pena che mi sono costate la preparazione e le infinite volte che ho dovuto correre su e giù per le scale con relativi dolori alla schiena e ai piedi. Dimentico tutto questo e sono felice insieme agli altri. Prima faccio entrare la bimba di giugno, poi entrano le altre e noi in ordine di età. Poi la servi tu, il sorvegliante capo con la sua famiglia e i sorveglianti delle altre fattorie. Le mamsels, i contabili e i segretari, e infine tutti i bambini, eserciti di bambini, con i più grandi che tengono i fratellini per mano e i neonati in braccio mentre le madri sbirciano dalla porta. Quelli che ci stanno si assiepano davanti agli alberi e cantano qualche inno, poi ricevono i regali e trionfanti se ne vanno per far posto al drappello successivo. Le mie tre bimbe hanno cantato con gran trasporto, sia che sapessero o meno le parole degli inni. Per l'occasione indossavano vestitini candidi. Quello della bimba di giugno aveva addirittura la scollatura e le maniche corte, alla maniera dei bambini teutonici, qualunque sia il clima, e metteva in mostra le sue braccia forti come quelle di un pugile. La sua bambinaia le adora, sono il suo orgoglio e la sua gioia, e mentre gliele infiocchettava con dei nastri blu non riusciva a smettere di baciargliele. Se crescendo le rimangono le braccia che ha adesso, credo che non potrò portarla con me alle feste danzanti. Quando sono venuta a darmi la buonanotte erano pallidissime e fin troppo calme. La bimba di aprile aveva con sé un bambolotto giapponese dall'aspetto sfinito. Ha detto che lo portava a fare la nanna con lei, non perché gli piacesse la sua compagnia, ma perché gli dispiaceva per lui che sembrava tanto stanco. Mi hanno dato un bacio fugace e se ne sono andate. Soltanto la bimba di aprile, passando davanti agli alberi, li ha guardati e gli ha fatto una riverenza. Ciao ciao alberi, ho sentito che diceva. Poi ha fatto fare la riverenza anche al bambolotto in modo languido e blasé. Non vedrai mai più alberi come questi, sai? Ha detto scuotendolo con cattiveria. L'anno prossimo a quest'ora sarai bello che rotto. È uscita, ma è tornata subito indietro come se avesse dimenticato qualcosa. Ringrazia il Gesù bambino, tanto tanto, mamma, per tutte le cose belle che ci ha portato. Ora gli scrivi una lettera, vero? Insomma. Non c'è stato nulla di rozzo nel nostro Natale e siamo stati felici senza necessità di fingere per almeno 2 giorni. L'occasione ci ha fatto sentire più vicini e ci ha reso più gentili. La felicità fa bene alla salute, mi dà energia e accende la mia religiosità in modo molto più efficace di una sfilza di afflizioni e di dolori. Un piacere inatteso è la garanzia che io cada in ginocchio. Nonostante certe persone strutturate in modo particolare sostengano che le afflizioni le rendano migliori, non credo che la vita funzioni così. Anzi, certe prove ci inaspriscono mentre la felicità ci addolcisce e ci rende più gentili e delicati con gli altri. E chi affermerebbe mai che conviene essere grati più per le afflizioni che per le benedizioni? Siamo al mondo per essere felici e per accettare con gratitudine la felicità che ci viene offerta. Oserei dire che non siamo mai grati abbastanza per tutto quello che ci viene dato, che è sempre moltissimo, molto più di quello che meritiamo. Conosco una donna, è stata nostra ospite l'estate scorsa, che gode della sofferenza delle persone a cui vuole bene. Crede che soffrire sia il nostro destino, che ci rinforzi e ci faccia bene, e non vorrebbe mai proteggere nessuno neppure da una pena inutile. Lei piange insieme all'amica che soffre ed è convinta che tutto questo accada per un bene superiore. Beh, continui pure con le sue cupe convinzioni. Lei non possiede un giardino che le insegni la bellezza, la felicità e la santità e non desidera minimamente possederne uno. Le sue convinzioni sono tinte dello stesso triste grigio delle strade, delle case squallide in mezzo a cui vive, il triste colore dell'umanità ammassata. L'arrendevolezza a ciò che la gente chiama il proprio destino è semplicemente ignobile. Se il tuo destino ti fa piangere e ti rende infelice, buttalo via e prendine un altro. Agisci. Non ascoltare le proteste dei parenti, le loro parole di scherno, le suppliche. Non permettere al tuo minuscolo ambiente di dettarti ogni movimento. Non temere la pubblica opinione incarnata dal vicino di pianerottolo. Quando il mondo è a tua disposizione, sempre nuovo e splendente, pieno di opportunità da afferrare per la collottola con energia e senso di indipendenza. A sentirti parlare, ha detto il re, non si direbbe che passi le giornate a fantasticare in giardino con un libro e che non hai mai afferrato nulla per la collottola. In che punto si trova la collottola? Spero bene di non averla. Si è guardata il collo allo specchio. Lei e Minora dovevano aiutarmi a decorare gli alberi, ma poco dopo il re è finita al pianoforte, mentre Minora ha aperto il libro perché era stanca. Allora ho chiamato Miss Jones. Come dirò in seguito, questa è stata la sua ultima apparizione in pubblico, e le bambine per farmi aiutare. Ci abbiamo lavorato per quasi 2 giorni, e alla fine gli alberi sembravano splendide dame nelle loro ampie crinoline scintillanti che reggevano l'orlo con dita ingioiellate. Minora ha scritto una lunga descrizione degli alberi nel capitolo del suo libro intitolato Noël. L'ho visto con i miei occhi, perché aveva lasciato il taccuino aperto sul tavolo per mettersi a chiacchierare con Miss Jones. Hanno fatto amicizia da subito, quelle due, e per quanto si dica che è naturale sviluppare un attaccamento per un connazionale, io ho un simile motivo per spiegare un affetto improvviso, non la provo neanche un po'. Di cosa parleranno mai? Ho chiesto ieri ai re, notando che non c'era verso di far venire Minora a prendere il tè con noi, assorta com'era in una conversazione con Miss Jones. Oh, mia cara, come posso saperlo io? Parleranno di fidanzati, oppure pensano di essere intelligenti, e in tal caso diranno solo scemenze. Certo, Minora pensa di essere intelligente. Immagino di sì, ma che importanza ha cosa pensa? Piuttosto, dimmi perché la governante ha un'aria così lugubre. Ogni volta che siamo a tavola è come se avesse appena ricevuto la notizia che è morto qualcuno. Eppure non può essere in lutto tutti i giorni. Cos'ha che l'affligge? Credo che dentro di sé si senta meno rispettabile di come appare all'esterno, ho risposto incerta. L'espressione di Miss Jones è per me un enigma e un rovello continuo. Allora non è poi così male. Pensa se si sentisse esattamente come appare. In quel momento si è aperta pian piano la porta della stanza delle lezioni e la bimba di aprile, stanca di giocare, è venuta verso di me. Si è seduta ai miei piedi, lasciando la porta aperta, perciò abbiamo sentito cosa diceva Miss Jones. Raramente i genitori sono saggi e la fatica che i genitori coscienziosi fanno per apparire tali di fronte ai figli e all'istitutrice deve essere tremenda. Gli ecclesiastici, per esempio, non sono certo più devoti dei laici e tuttavia di fronte al loro gregge devono porsi come tali. Quanto alle istitutrici, Miss Minora, so bene di cosa parlo quando affermo che non c'è nulla di più intollerabile del dover mostrare educazione, persino umiltà di fronte a persone le cui debolezze e follie sono lampanti in ogni parola che dicono, e del doversi attenere, a causa della presenza di bambine e datori di lavoro, a un decoro che non corrisponde ai propri sentimenti. Il serio padre di famiglia, colui che forse un tempo è stato uno scapolo tra i meno rispettabili, lo vedi seduto a capotavola, obbligato ad assumere un'aria di infallibilità solo perché i figli lo osservano. Ecco un soggetto di studio interessante. Il fatto che sia un genitore non gli fornisce certo virtù supreme o repentine, e le posso assicurare che tra tutti gli occhi che lo osservano, lo sguardo più critico e divertito è proprio quello dell'umile persona che occupa il posto di istitutrice. Oh, Miss Jones, che belle parole! Ha esclamato Minora con espressione rapita mentre noi due ascoltavamo impietrite dall'orrore. Le dà fastidio se le scrivo nel mio libro? Lei parla in modo così incantevole! Senza qualche ora di relax? Ha proseguito Miss Jones. Senza un risarcimento segreto lontano dagli occhi del mondo per le faticose virtù mostrate in pubblico, chi riuscirebbe a superare indenne giornate intere di comportamento corretto? Non sarebbe possibile alcuna reazione, non ci sarebbe spazio né per slanci più nobili né per il pentimento. Genitori, sacerdoti e istitutrici si troverebbero nella situazione di una robusta matrona che non ha mai un momento di tranquillità in cui slacciarsi il corsetto. Santo cielo, che agitatrice! Ha sussurrato il re. Mi sono alzata e sono andata nell'aula delle lezioni. Le ho trovate sedute sul divano. Minora, con le mani giunte, colma di ammirazione, fissava Miss Jones, la quale aveva un'espressione molto diversa dalla solita maschera di bisbetica e riluttante rispettabilità alla quale ci ha abituati. Posso chiederle di unirsi a noi per il tè? Ho chiesto a Minora. Le bambine vorrei tenerle io per un po'. Minora si è alzata controvoglia, ma io sono rimasta sulla soglia finché non è uscita dalla stanza con le due bambine. Mentre Miss Jones forniva a Minora pensieri elevati per il suo libro, avevano giocato a imbottirsi le orecchie con pezzetti di carta di giornale e gli è toccato sottoporsi alla tortura delle pinzette per estrarre la carta. A Minora non ho detto nulla, ma non l'ho persa di vista fino all'ora di cena. Questa mattina siamo andate a fare una lunga corsa in slitta e al nostro ritorno per pranzo Miss Jones non c'era più. Miss Jones è malata? Ha chiesto Minora. Se n'è andata, ho risposto. Andata? Ha mai sentito parlare di cose come assistere una madre inferma? È intervenuta il re con tono indifferente. Abbiamo prontamente cambiato argomento. Minora ha tenuto il broncio per tutto il pomeriggio. L'abbiamo crudelmente separata dalla sua anima gemella, come spesso accade con le anime gemelle. Per questo tiene il broncio. E ha ragione, povera Stella. Non è colpa sua se ha preferito la compagnia di Miss Jones alla nostra. A cena il re l'ha scrutata piegandola la testa di lato. È molto pallida, non sta bene. Minora ha alzato lentamente lo sguardo dal piatto, come se il gesto le costasse fatica, con l'atteggiamento paziente di chi gode essere considerato sofferente. Mi fa un po' male la testa, ha risposto con mitezza. Spero che non si ammali, ha commentato il re molto preoccupata. Qui abbiamo soltanto un veterinario per le mucche. È una brava persona, ma credo che abbia maniere un po' sbrigative. Minora è apparsa allarmata. E cosa fate se vi ammalate? Oh, non ci ammaliamo mai. Per non ammalarci ci basta sapere che non c'è nessuno che ci curerebbe, ho risposto. E se qualcuno si mette a letto, Elizabeth manda a chiamare il veterinario. Minora è rimasta in silenzio. Sono certa che l'impressione di essere finiti in un angolo di mondo abitato esclusivamente da barbari e che l'unico essere civilizzato, a parte lei, se n'è andato lasciandola alla nostra mercé. In ogni caso, pensi pure quello che vuole. Il suo malessere sta scomparendo a vista d'occhio.